le rose, pallida la fragile mimosa, canta le parole che il suo amore ondile sospiro. Mimosa, prima che il mandorlo muoia, ritornerò da te. Mimosa, come una piccola gioia, ti porterò con me. Lontano, in un nido che aspetta il tuo cuore, vivrò. Mimosa, ma nel suo lettino non riposa, forse con il mandorlo sfiorisce, mentre sospira aspetta il tuo cuore, vivrai.